I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Deborah Rosciani. La grave crisi greca questa settimana ha fatto dei passi avanti con il via libera del Parlamento ellenico al durissimo piano europeo per il terzo salvataggio di Atene. Le borse si sono molto tranquillizzate, anche se in realtà la questione non è ancora del tutto risolta e certamente renderà nervosa la comunità finanziaria ancora per settimane. Tsipras non solo ha incassato l'ok del Parlamento alle misure di austerità necessarie per ricevere aiuti, anche la Banca Centrale Europea ha innalzato il tetto dei fondi di emergenza e gli organismi europei hanno dato il via libera al prestito ponte per fronteggiare le scadenze di questa settimana, di cui una molto rilevante proprio oggi con la BCE. L'altro grande tema della settimana è l'accordo USA-Iran sulla questione nucleare, che il mercato ha salutato positivamente. E a proposito di Stati Uniti, la numero uno della Banca Centrale Americana, Janet Yellen, ha espresso più chiaramente le sue intenzioni di politica monetaria. I tassi riprenderanno a salire non più tardi del prossimo autunno. Su questa prospettiva il dollaro ha cominciato a correre su tutte le divise e in calendario adesso c'è la riunione della Federal Reserve il 28 e il 29 luglio. Molto fermento anche in borsa a Wall Street, dove il Nasdaq continua ad aggiornare i suoi record di sempre. Settimana scorsa è andata molto bene anche la borsa di Tokyo, che oggi è chiusa per festività, e dopo le recenti sbandate ha ripreso vigore anche la borsa cinese grazie alle misure varate dal governo per arginare i crolli che erano in corso da giugno. In Italia i temi su cui si è mosso il mercato sono stati abbastanza condizionati dalla questione greca. Un focus particolare lo hanno meritato alcuni titoli bancari e del risparmio gestito. In particolare hanno subito dei bruschi cali Azimut e Mediolanum, dopo che la Consob ha richiamato queste società ad una maggiore attenzione nella collocazione presso la clientela di prodotti di investimento di diritto estero. Più sereno anche il settore obbligazionario. Il rendimento del BTP decennale nei giorni scorsi è sceso sotto il 2%. Come sempre, prima di finire, un'occhiata ai temi da monitorare questa settimana. Arriva una vera e propria valanga di trimestrali. Dagli Stati Uniti arrivano i risultati di Morgan Stanley, Apple, Microsoft ed Amazon, tanto per citare le società più importanti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Mentre aspettiamo di capire quali soluzioni troverà il governo per superare le attuali rigidità della riforma delle pensioni, oggi arrivano i dati dell'INPS che testimoniano come quella dell'uscita anticipata dal mondo del lavoro sia un'esigenza, spesso una necessità molto sentita dai lavoratori. Vediamo i dati. Nel primo semestre del 2015 rispetto allo stesso periodo del 2014 si è registrato un forte incremento delle pensioni anticipate. Ecco, cosa sono le pensioni anticipate? Sono quelle che si possono ottenere prima del raggiungimento dell'età anagrafica di legge. Attualmente siamo a 66 anni e 3 mesi per gli uomini o 63 anni e 9 mesi per le donne, avendo però almeno 42 anni e 6 mesi di contributi per gli uomini e 41 e 6 mesi per le donne. Quindi la riforma Fornero ha abolito le pensioni di anzianità con l'esclusione dei salvaguardati e ha introdotto la pensione di anticipata, determinando un rallentamento nell'accesso al pensionamento. Quest'anno però i lavoratori bloccati dalla riforma cominciano a raggiungere i nuovi requisiti e infatti l'INPS registra una maggiore incidenza di pensioni anticipate sia tra i dipendenti sia tra gli autonomi. Per i primi in particolare una nuova pensione ogni 3 risulta essere una pensione anticipata, mentre tra gli autonomi siamo al 25%, cioè una nuova pensione ogni 4 è anticipata. Tutto ciò in attesa di sapere che cosa vorrà realmente fare il governo per rendere più flessibile le regole di accesso alla pensione. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.